qui, io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Non appena notai il gruzzoletto che mio fratello aveva raccolto, non sapendo bene il significato di tutta quell'operazione, non esitai a prendere di nascosto dalla mamma e da lui la casetta salvadanaio e a ripetere la questua che aveva effettuato lui. Sono Paolo, sono nato e vivo a Firenze, ho 60 anni, sono sposato ed ho un figlio di 28 anni. Ho sempre avuto la passione per la letteratura, ma soprattutto per la pittura, la raccolta di vecchi giocattoli e soprattutto di presepi. Devo decidermi a scrivere a voi siete qui, mi scrive Guido, perché questa storia del punto sulla mappa mi ricorda troppo la visione del mondo che avevo da bambino. Tanti puntini che corrono per la mappa lasciando un filo colorato dietro di sé. Mi ripetevo che quando quel groviglio di milioni di fili si sarebbe sciolto, ci sarebbe stata la fine del mondo. E, rassicurato da questa mia tesi, sorridevo, pensando che quel giorno probabilmente non sarebbe arrivato mai. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, quello che avete appena sentito è l'inizio di una mail di Guido che ci ha scritto ieri sera, è arrivata alle 10:30 di ieri sera e ha accompagnato questa mail ovviamente con una storia. Noi raccontiamo storie, lo facciamo tutti i giorni alle 16 in diretta su Radio 24, dal lunedì al venerdì e al sabato alle 14:30. Più che storie vere e prove, in quel caso raccontiamo pagine di diario, per i diari di voi siete qui. L'indirizzo per mandare sia pagine di diario sia storie è sempre quello: voi siete qui, @radio24.it. Prima di cominciare a raccontare la storia di oggi, che è la storia di Paolo, come avete sentito, nonostante la papera che ho preso dicendo salve danaio, perché mia nonna diceva salve danaio e credo fosse un po' dialettale e quindi mi è rimasto, diceva anche un'altra cosa mia nonna che ogni tanto mi confondo, che era pettenati un po', Matteo, pettenati, fai qualcosa per sti capelli, pettenati un po'. 349-238-6666, non parliamo di errori grammaticali, non parliamo di mia nonna, parliamo della storia di Paolo che parla di gelati. Guardate, oggi vorrei proprio fare una specie di veloce conta, lo so, è molto semplice e anche un po' stupida, però un po' tutti abbiamo cercato di battere un record mangiando più gelati o ghiaccioli possibili da ragazzi. Ecco, è arrivato il momento di confessarlo. 349-238-6666, non nell'arco di un anno e nell'arco nemmeno di un mese, ma nell'arco di un pomeriggio, no? 15, 20. Adesso vi racconterò qual è stato il mio record e lo faccio solo perché prendiamo spunto dalla storia di Paolo. Prima di raccontarla però vi dicevo che se avete voglia di venire a vedervi una specie di live, non il live che facciamo alla fine dell'anno, ma una diretta dal vivo del programma, potete farlo giovedì prossimo alle 16, ovviamente, essendo in diretta, dal negozio Pirelli in Corso Venezia numero 1 a Milano, è in pieno centro a Milano, è gratuito e noi raccontiamo storie di regali di Natale. Se avete voglia di venire, andate sul nostro sito, alla nostra pagina, voi siete qui, e ci cliccate su Pirelli Live, voi siete qui, vi iscrivete, è tutto gratuito e ci facciamo questa mezz'oretta tutti insieme, tranne, mi spiace ricordarlo, Miriam Lucchetti, che non è mai con noi, è sempre segregata, qui nella splendida serra di Radio 24 disegnata apposta da Renzo Piano. 349-238-6666. Immaginate di essere in estate e di avere un sacco di voglia di ghiaccioli e di gelati. Una volta ancora non andavo a scuola. Avevo più o meno 4 anni. Mio fratello Daniele, come gli altri suoi compagni di scuola elementare, tornò a casa con una piccola scatola di cartone colorata a forma di piccola casa. Erano quelle che venivano distribuite nelle scuole dall'INA Casa. E aveva una fessura sulla sommità del tetto, a mo' di salvadanaio. Questa iniziativa era nell'ambito di quelle attività didattiche finalizzate a far apprezzare agli scolari il valore del risparmio, della generosità e dell'assistenza ai bambini di famiglie meno fortunate. Il compito dei bambini che avevano queste casette salvadanaio era quello di raccogliere, passando di casa in casa, piccoli contributi in denaro, che poi sarebbero stati, una volta consegnati alla maestra, di lì consegnati al fondo per la costruzione delle case per le famiglie bisognose. Ebbene, Daniele eseguì alla perfezione il suo compito, nel primo pomeriggio di un autunno piovoso, all'apertura dell'anno scolastico. Non ricordo esattamente, ma mio fratello Daniele aveva raccolto qualche centinaia di lire, insomma. No, io non l'avevo aiutato, l'avevo osservato mentre lui costruiva la sua casetta, però avevo partecipato quando, rientrando in casa, aveva smontato la cassetta, aveva raccolto appunto tutti quei soldini e li aveva messi da parte per consegnarli dopo la maestra. Non appena notai il gruzzoletto che lui aveva raccolto, non sapendo bene il significato di tutta quell'operazione e ignorando certamente le sue finalità e chi ne avrebbe beneficiato, non esitai a prendere di nascosto, ovviamente, dalla mamma e da lui, la casetta salvadanaio e a ripetere l'operazione che aveva fatto lui. Feci anch'io quindi lo stesso giro di casa in casa e a tutti quelli che mi chiedevano se io poi avrei fatto esattamente come mio fratello, cioè se poi avrei consegnato quei soldi raccolti alla maestra. Quale maestra, pensavo io, visto che ancora non andava a scuola. Io rispondevo con un ghigno di soddisfazione che io no, io non sarei stato così stupido come Daniele, che quei soldi me li sarei tenuti tutti per me, che per comprarmi una lunga serie di gelato pinguino alla bottega di alimentari in fondo al paese. Io raccolsi molto meno, non ricordo quanto, ma forse un centinaio di lire, insomma, perché la raccolta fu fatta nel paese dove abitavamo e dove tutti ci conoscevamo, e quindi anche tutte le persone, tutte le famiglie conoscevano, oltre me e mio fratello, ma anche la nostra famiglia. Questa mia risposta induceva tanta ilarità nei miei benefattori e molti mi trattenevano offrendomi magari un sorso di vino annacquato per farmi fare ancora più il buffone e farli divertire ancora di più. Conclusi il mio giro, insaccai i soldi in un vecchio calzino e lo nascosi nella cuccia del gatto. La cosa venne ovviamente alle orecchie della mamma e quella sera il babbo fu durissimo e mi obbligò a riportare a chi me li aveva dati i soldi che avevo raccolto. Promisi che l'avrei fatto il giorno dopo. Non ho poi mai rivelato a nessuno in casa che quei soldi invece me li tenni per me. E dopo forse qualche mese mi servirono per abbuffarmi di gelati, grazie anche all'omertà dei miei vicini di casa. Comes trouble, put your helmet on, we'll be heading for a fall, yeah, the whole thing's gonna blow, and the devil's got my number, it's long overdue, he'll come looking soon, yeah, the whole thing's gonna blow. È un signore molto distinto, Paolo, nella foto che ci ha mandato, che trovate sul nostro sito. È seduto su una sedia di vimini in un bar all'aperto, quindi probabilmente non è estate perché ha su un maglioncino, però è una bella stagione. Pantaloni chiari, camicia bianca e, in maniera quasi demodé, una sigaretta nella mano. Pronto Paolo, buongiorno. Ciao, buongiorno, ciao Matteo. Come stai? Tutto bene, grazie. Dicevo in maniera quasi demodé perché non si vede quasi più una fotografia con qualcuno che fuma una sigaretta. Fumi ancora, Paolo? Ma raramente, però quando sono in vacanza, in quella foto ero in vacanza con un mio amico a Bosa in Sardegna, sì, durante una gita in barca, mi sono concesso una sigaretta ogni tanto. Sei un velista? Sono amico di un velista. Ah, ok, quindi approfitti di lui sostanzialmente. Approfitto del Paolo, che cosa fai adesso nella vita? Sono ancora dipendente della pubblica amministrazione, tra poco andrò in pensione, quindi mi sto pregustando la libertà prossima. Quanto ti manca? Un annetto circa. E quindi passerai da, cosa fai, 8 ore normali di lavoro al giorno? Sì, diciamo che sono impegnato tutta la mattina fino del pomeriggio, oggi sono uscito un po' prima perché dovevo fare delle commissioni. Quindi insomma passerai comunque dall'avere, come tutti quelli che vanno in pensione, te lo dico solo per ricordartelo, no? Da tutti i giorni impegnati a non avere nulla da fare. Come la vedi questa cosa, Paolo? Diciamo che un po' mi preoccupo, come penso tutti, però mi sto organizzando, sto facendo altre cose, ho una piccola attività, un atelier dove faccio delle pitture, dei presepi. È una cosa abbastanza carina, insomma, è rilassante. Per ora faccio il sabato e la domenica e domani lo farai tutto il giorno. Tu hai una famiglia, Paolo, o sei da solo? Sì, sono sposato e ho un figlio appunto di 28 anni. Ah, che ancora per pochissimo tempo vivrà con me e poi si sposerà anche lui. Che cosa fa lui invece? Lui è ingegnere, io sono architetto, ma lui invece è un ingegnere meccanico. Invece torniamo un attimo a quegli anni, perché tu avevi 4 anni e a parte che mi divertiva il fatto che si dice che i primi ricordi nostri, degli esseri umani, risalgono più o meno quel periodo lì, no? 3 anni e mezzo, 4. E mi fa ridere il fatto che tu come primo ricordo hai sostanzialmente un ladrocinio, detto più o meno, detto male, insomma, utilizzi dei soldi di beneficenza, giusto, quello sarebbero serviti per mangiarti dei ghiaccioli. Certo. Ma mi divertiva ancora di più il fatto che ti dessero del vino annacquato a 4 anni. Ma era un po' l'abitudine anche in casa, cioè che anche allora, insomma, ai bambini veniva concesso di bere, non sempre, qualche volta, la domenica, un po' di vino, pochissimo vino, insomma, all'acqua. Era... Poi in realtà ho detto così, ma Tiziano Bolini mi ha appena detto che era normale, anche da loro in Umbria si usava. Cioè, adesso è tantissimi anni e non bevo più il vino annacquato, ma allora era una cosa abbastanza, poi soprattutto magari non i genitori, gli zii, i nonni. Sì, io mi ricordo, mia nonna, io non bevo vino, però mia nonna, il ricordo mio legato al vino è mia nonna paterna che mi dava vino rosso e gazzosa, come si dice dalla mia parte, vin russo e gazusa, però appunto è molto nord-ovest. Tu di dove sei esattamente? La tua parlata toscana chiaramente non mente, però... Sono nato a Firenze, però appunto da piccolo sono vissuto in un paese, in un piccolo paese, in un comune vicino a Firenze, proprio con Termine, diciamo alle prime pendici del Chianti, insomma, in campagna, okay. Però è stato molto piccolo. Perfetto, la zona che adesso è diventata per metà inglese sostanzialmente. Ma sì, ci sono tutte le abitazioni, con tutte le case coloniche ristrutturate, è diventata una zona quasi esclusivamente residenziale, insomma, della città di Firenze. Paolo, io ti ringrazio per averci mandato questa piccola storia, ma grazie anche per la chiacchierata. In bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie a voi, complimenti per la trasmissione e un saluto a Miriam. Grazie mille, grazie. Ciao Paolo. Ciao Matteo, ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. La mamma del mio amico Chicco aveva una pompa di benzina. Era un distributore di paese a 3 pistole. Aveva miscela, super e benzina agricola. Tutti i giorni, dopo i compiti, io passavo in bicicletta e lui era già lì ad aspettarmi. E poi ce ne andavamo a giocare a pallone. Qualche volta però, dopo che eravamo un po' cresciuti, sua mamma aspettava che arrivassi anche io e poi diceva: «Ragazzi, vado solo a fare la pipì!» e ci lasciava lì a fare la benzina. Col passare del tempo ci abbiamo preso gusto. Così, un'estate, siamo diventati quasi degli apprendisti. Tutti i giorni passavamo almeno un'ora a vendere benzina. Il nostro orario preferito era appena dopo l'apertura pomeridiana. Quello era il nostro orario preferito perché di fronte al distributore di benzina c'era il bar del Nando, detto anche Neanderthal. Tutti i giorni, verso le 3:30, raggiungevo il Chicco al distributore. Non dovevo nemmeno scendere dalla bici che lui mi sganciava un bel 10.000 lire, un 10.000 lire che aveva preso ovviamente dal cassetto della cassa. E io sapevo cosa fare. Andavo al bar a comprare i ghiaccioli per la nostra sfida. «Un ghiacciolo lire 250», mi diceva sempre il Nando, che sapeva già che cosa volevo. Io gli mollavo 10.000 lire e lui continuava: «Con 10.000 ne compri 40». E io, in effetti, ne compravo 40 per volta. Li portavo al distributore nel cartone lungo e stretto di quelli che stanno dentro il frigo dei gelati. E la sfida era a chi ne mangiava di più. E per non correre il rischio di finire in pareggio, inventavamo delle regole tipo: «Allora, tu oggi non mangi la menta, io non mangio la marena». Poi, quando da lontano vedevamo sua mamma arrivare, buttavamo tutto, cartacce e cartone, nel bidone, per non lasciare tracce. Questo ovviamente succedeva solo d'estate, perché d'inverno, di solito, a quell'ora eravamo a scuola. In quei mesi Chicco passava solo per portare a casa i contanti dal distributore di benzina, i contanti che sua mamma non voleva tenersi troppo addosso. «Vai a casa e li metti sotto il letto», gli diceva. Lui il più delle volte lo faceva, ovviamente, e qualche volta invece no. Qualche anno dopo, era l'8 di dicembre del 1990, eravamo in montagna da soli, io e lui, per inaugurare la stagione di sci. E quella mattina, mentre siamo in seggiovia, in una tasca, Chicco trova un pacco così di contanti, dimenticati là chissà quanto tempo prima. A nessuno dei due ovviamente viene in mente di restituirli. Ci convinciamo di essere nel giusto, attraverso il sillogismo secondo cui se nessuno li ha cercati in passato, non sono più di nessuno. E se non sono più di nessuno, allora sono nostri. Di solito andavamo a sciare con un panino e un'arancia nello zainetto. Quel giorno invece ci leviamo ogni sfizio. cioccolata con panna, toast caldi, tutto quello che vogliamo. Ma alla sera, quando togliamo gli scarponi, ci ritroviamo ancora più di 2 milioni fra le mani. Andiamo in pizzeria, mi fa Chicco. Io ovviamente non mi faccio pregare e quella sera sulla neve mangiamo pizza e frutti di mare. Ma nemmeno quello riesce a scalfire il nostro budget. Quindi quando torniamo a casa, il giorno dopo, restituiamo tutto alla mamma di Chicco. Tralasciamo ovviamente che manca qualcosa e recitiamo la parte dei ragazzi responsabili. Lei è così fiera di noi che ci premia con 20.000 lire a testa di ricompensa. E alla fine della storia di Paolo ho capito che, primo, il valore del denaro non è una qualità innata. Secondo, un bambino sa come ottenere quello che vuole, più di molti altri adulti. Terzo, i gelatai non hanno scrupoli. Quarto, il distributore di benzina è una palestra di vita. E quinto, soprattutto, si può sopravvivere anche a 40 ghiaccioli. When I go back Baltimore, need no carpet on my floor, you come along. Follow me, we'll go down to Galilee. Howling green, green, rocky road, you're promenading green. Tell me who you love, tell me who you love. Ci deve essere qualcosa nelle gare idiote, nel battere i record idioti, soprattutto quelli che riguardano l'ingurgitare qualcosa, perché chiedi quanti gelati avete mangiato nella vostra vita, in forma di record ovviamente, e arriva di tutto. All'elementare, scrive Andrea, durante il quarto anno, nella pausa pranzo immensa, io e un mio amico facciamo la gara chi mangiava più mandarini. Vinsi io, ne mangiai 34. E poi ancora mi sono mangiato un pacchetto intero di gomme da masticare. Spero che tu le abbia masticate, solo, a dire la verità. Quelle in sacchetto che sembravano spinaci fatte a spinaci. Paolo, Davide, non è chiarissima questa cosa. E poi ancora, vabbè, mi scrivono che negli anni 60 mia nonna mi dava caffè e vino. Non so chi me lo scrive, ma insieme, immagino. Forse no, cioè gli dava, come dire, tu pensa che da bambino mi davano il caffè e il vino. E poi ancora, sono Paolo, 61 anni, anch'io e sovente faccio una gara con me stesso per divorare sempre più dolci, torte e qualsiasi altri tipo di dolciumi che mi capitano sotto mano. Vinco sempre io, sono nella fase orale freudiana. Ciao da Biella, questo messaggio lo diamo direttamente a Nicoletta Carbone, che lo tratterà in Cuore e Denari insieme a Deborah Rosciani, per capire, primo, che cosa rimane nelle tasche di questo ascoltatore e soprattutto che cosa gli rimane nello stomaco. Grazie a Gianmarco Ferronato, grazie a Tiziano Bonini, a Miriam Lucchetti, ovviamente grazie a Mauro Pescio che scrive insieme a me questo programma. La storia di oggi ovviamente era di Paolo, quindi ringraziamo anche lui, perché lui è un punto rosso su una mappa. Sono Gerardo, vivevo a Roma, adesso in giro per il mondo. La storia di domani è la mia e parla del mio primo incontro con la morte nella legione straniera. Questa è la mia storia e io sono qui.